il linguaggio usato dal governo, dalle forze armate e dall'industria della difesa e sicurezza, che dicono che viviamo in un periodo di guerra, e è un periodo di guerra legato non soltanto alle crisi ambientali, energetiche, eccetera, ma legato anche alle minacce ibride, cioè legate all'aspetto cognitivo, le fake news, tutto ciò che riguarda ad esempio i video sviluppati con l'intelligenza artificiale che riescono a modificare la percezione della realtà, oppure tutto quello che hanno a che fare con la cybersicurezza, quindi la cosiddetta guerra di rete. Per cui che cosa dice Leonardo? Che siamo in un periodo di no pace, ok? Dice proprio no pace, per cui bisogna passare dalla dottrina tradizionale della difesa a quella di global security. Vuol dire che bisogna mettere in sicurezza non soltanto le strutture nazionali, ma anche tutto ciò che ha a che fare appunto con quelle che sono le reti, soprattutto civili. Quindi Leonardo, dal suo punto di vista, deve occuparsi sia dell'aspetto militare sia in quello civile, deve coordinare e mettere in sicurezza. Mentre sempre Cingolani dice, cosa deve fare la governance politica? Mettere in sicurezza le politiche interne ed esterne. Questo è importantissimo, il discorso di interno ed esterno è fondamentale, perché si parla proprio di guerra infinita sia interna che esterna, sempre civile e militare. Come si fa a connettere tutto questo apparato? Attraverso la tecnologia digitale e attraverso la connessione con le applicazioni spaziali, cioè con i satelliti. Infatti, se andiamo a vedere cosa sta facendo Leonardo, sta cercando di ristrutturare tutte le sue divisioni. Perché? Perché la tecnologia digitale deve entrare non soltanto a livello del processo produttivo interno, ma anche ai livelli di sistemi d'arma e anche in tutta la sfera sociale. Quindi vuol dire che, prendete come esempio ad esempio la cupola di Michelangelo, cioè quello scudo antimissile che Leonardo vorrebbe comprare, che pare che Crosetto abbia già pensato, no? di mettere in finanza. Sarebbe una piattaforma che mette in collegamento l'allerta preventiva, i radar, il GCAP che è il nuovo caccia, e il SAMP2 che sono appunto le batterie antimissile. Quindi si sta proprio creando una sorta di guerra totalizzante, cioè questi vogliono veramente occupare tutti gli spazi civili e militari a tutti i livelli. Allora importantissimo è anche sapere che l'Italia sta ricevendo quello che è il concetto di sicurezza nazionale israeliano. Vuol dire che noi dobbiamo avere più riservisti, dobbiamo fare accordi fra l'industria militare italiana e l'esercito, perché è così che succede in Israele, cioè ci deve essere proprio una concordanza fra questi tre attori. Quindi industria, Stato e forze armate si devono intrecciare. Noi l'abbiamo visto ad esempio anche attraverso tutti gli accordi che si fanno con le università, e sono tutti accordi che spesso sono legati a accordi quadro che prevedono la segretezza.